il discorso è questo, che a cosa me le trattengono, a che cosa? Cazzo, già mi daranno una miseria e tu mi togli anche 50 euro di trattenute, no? E cosa è il travaglio? Ma due del tuo euro, non ho più preso. Ecco, c'è ragione, a volte prego. Buonasera Gianni, Sandro con Alghero in trasferta. Sì, Alghero in trasferta. Uè, Sandrino, tutto bene? Come sta il pupo? Il pupo un po' fa da bravo, un po' fa da cattivo, fa le parti che deve fare. Forme la notte, ho visto a penale. Ma diciamo che fa un pupo, però già la fa da bravo, dai, già un bravo bambino. Saluto a te, la tua signora sicuramente con te, dai, e il puppetto. Sono in compagnia di Giuseppe Rivacino, avanti, dove te la trovi? Oh, come? Appa, Fretaniello è in uscita per Alghero, al rientro. Ah, cavolo, piazza, tutto al lavoro. Al lavoro, verso Porto Torres, dai. Ti sento forte però, Buonasera. Buonasera anche a lì. Buonasera, io ho l'indicio quello che mi stupe il cuore di Arista. Chi è? Chi è? Non ho capito bene. Indicio bello, Iuri, indicio bello. Oh, signor Iuri, mi hai sentito. Cordialità. Ok, l'amico di Gigi Bucana. È positivo perché ne vorrei marcare stasera per... Vita vecchia, capito? Però faccio Genova da Porto Torres, così che vanno a casa. Com'è il mare? Non so, l'ultima non partiva e facciamo qua, diciamo, a Porto Torres. Cavaga, vai lui. Ma sentite, sono in compagnia di Coma e poi di Dolcino. Avanti, Dolcino. Ciao Sandro, Cona, buonasera all'amico che lo sento pio pio. Buonasera, buonasera anche a te, quindi sei di viaggio? Sei in viaggio, dove devi andare? Sei in Genova, devo fare festività vecchia ma sto facendo Genova. Cavallara, quindi allunghi la strada? Positivo. Ma dove sei? Attenzione, Sandro Cona, se mi ascolti, dammi un... Papà che ti ascolto, certo. Sono appena uscito da Alghero adesso, ho imboccato le quattro corsie. Ciao Leoncino, buonasera, ciao Iuri, non so se mi stai ascoltando, magari ci incrociamo tra un po'. Vai Gianni. E ancora, con quanti volte stai uscendo, per curiosità? Questo è strappo e gatto, dovrebbero essere quattro. Poi stiamo fanno 7-8 qua, siamo sulla Bubi per Plattarona, dai. Sto prendendo quella strada lì per andare verso Polotone. Qui sei 7-8, dai. Oscillanti. Vabbè, comunque ti ascolto bene, dai, questo che l'apparato virtuale è modificato. Questo è il President George, nuovo arrivo. Ah, ecco, c'è il President, no, pensavo che avessi il PT880. Il PT lo si sta e ce l'ho prendita, perché in pratica ho deciso di prendermi uno il George, che è un pochino più completo, che ha le bande laterali ed è un altro apparato. Quindi il TT l'ho rimesso in scatola, tanto alla fine lo stavo usando sotto la stazione fissa, ho fatto una scelta, l'ho messo e quello lo cedo. Ma raga, va bene, l'ho fatto, io lo stesso lo sto vedendo perché ce l'ho in più, però va molto bene. È un bel apparato. Caspita, io 400 canali, tutto quanto, esce bene di radio, eccetera, eccetera. Ti confermo, infatti è... Il Midland, quello di importazione, Alessandro, comando, beh, che zona è? Sta, come non è che non si sta, sei là. Ma c'è anche Yuri Cicciombello, Yuri! Attenzione, Yuri, Yuri, se vai copiando qua la stazione fissa di Leoncino, cambio! E da dove è chiuso Yuri, dai, lo sta imbarcando, boh! Kappa kappa! Attenzione Yuri, Yuri, se vai copiando la stazione Leoncino, cambio. Va bene, attenzione Conan, Conan, dove sei, dove stai, se sei arrivato, che zona sei, cambio. Sento pio pio pio pio Conan, se stai rientrando all'aereo, buon rientro, buon tutto, cambio. Cappa Gianni, Gianni doppio ru, è zona 6 adesso, dove sei arrivata, buon battore. Cappa di Rogero, cambio. Cappa, 9-10 Radio 5 qua. Cappa, eia. E gli ho messo un filo, pare massa, per il microfono, perché dice che a volte uscivo, a volte no, boh, ma non ho capito perché. E vabbè, K di Rogero. E pigliala con calma già, e avere sangue freddo, anzi, sangue caldo, devi prenderlo tranquillo il lavoro, come arrivi, piano piano e vedrai che passa. È bello che lì piano piano si può andare, bisogna muoversi, il caffè bisogna riempire in fretta, se no la gente non compra e noi non lo vediamo. E cappa, e noi devi riempire tutti stasera, no? No, io c'ho il mio reparto, io c'ho il suo. Ah, cappa, e vabbè. Ui, ui, ui, e ci vado a far merenda, a vedere un po' cosa c'è nel piatto, cambio. Tanto fai merenda, che grazie, e il piccolino l'ha accompagnatola? No, e ce l'ho ancora, alle 8 dovevo accompagnarcelo. Allora merenda fa la fare. Gliela fatta, adesso le da una merendina e un succo di frutta, ecco, ho fatto la merenda. È buona forchetta, stai tranquillo, già è di buona forchetta. Ma ragazzi, voglio così, a me non ho da problemi. Già mangia tutto, già mangia tutto, cazzo. Allora, più gliene dai, più ce ne mette quello stomaco. Dai, ho pigliato. Cappa cappa. Vabbè, dai. Vabbè. Ma non è robusto. No, è magro. È un bel magro, già. È un bel magro, e... però mangia... cazzo, che... gli dai un bue, il bue ce lo mangia come niente. E ho un collega che se lo vedi è un fuscello, ma se lo vedi mangiare da sushi, si mangia lo sushi che se li lascia il bue. È una cosa allucinante quanto mangia. Eppure pare che io ho detto un giorno, ma lo faccio, non è solitario, cioè. Ma se non è possibile di ti portare chissà cosa avete lì a voi, bue. Adesso eri così tu direi, capito, dico, cosa là, che li dai a mangiare quanto vuoi, però non ingrassano mai, capito? E di costituzione magra. E così anche l'altro mio nipote, però mio nipote c'ha 30 anni, lo stesso, se lo vedi è alto, mangia, però non ingrassa, capito? Ho capito. Come ti sta arrivando l'acqua? Sono su un terrazzo, grandi o... 9, 15, radio 5. Bene, mega. In montagna segnale ci guadagna. Gabba, chiama Conan, se lo senti. Attento, sono Conan, se mi ascolti. Negativo, non ti ascolto per niente, grandi. Stasera se vogliamo organizzare qualcosa, ma boh, non lo so, vediamo un po', andiamo a mangiarci una pizzetta, un paio di pizzette, poi vediamo. Io noi ci devo freddo la gripa, se non passa questo freddo, poi vabbè, là. vediamo un po', Giuseppe, al limite te ne passi a casa, boh. Vabbè, là, non c'è problema, dai, vediamo cosa fare, capito? Vediamo, mi fai uno squillo fino a una certa ora, se sei disponibile, dopo fatta la doccia, se hai voglia di uscire mi fai uno squillo. A proposito, poco fa ti ho fatto uno squillo, però ho trovato una moto uguale a quella del tuo fratello. Trovatela! No, negativo, niente. Dimmi il numero di targa. Allora, il numero di targa è 77 1966, targata Milano. No, no, comincia la 52 questa, non è la sua. Ho provato a non vincere questa serie vecchia, però il suo cazzo così sempre non mi rispondi. E sembrava la sua e ti ho chiamato. Ma non è, diceva quel 52. 52? Cappa. Vabbè, comunque... Vabbè, ma è targata a Milano, te l'ho detto, 77, 19, 66. Non è stata rintracciata questa volta. Numero di targa. Senti il numero di targa, che ci dico, vuoi ascoltare, Giuseppe. Ciao, Gianni, ripeti che vado, me lo gioco all'otto, dai. Allora, targata, Milano, 77. 19, sì sì. Ciao Gigi, buonasera. Se vinci, pensa un po' a me. Ma io dici sono bello Gigi, se trovi il primo lo senti. Ma c'era caffè, non ho capito. E c'era Gigi, io dici sono bello. E dove? Qua a Porto Ottone, perché oggi non l'hanno fatto imbarcare, dovevo andare a Civita Vecchia, parte per Genova adesso. Oh, nel giro di Giobello l'ho imbarcato ieri sera, da Olbia. Non è partita, cosa sto dicendo? Non è partita la nave, perché c'era vento e cose, adesso è venuto qua a Porto Ottone. Lascia perdere che è partito ieri sera, c'è Giobello. Però se è partito perché c'era un vento, però doveva imbarcare ieri sera. No, non è partito Cicciobello, Gigi. C'era 5 minuti fa, ha parlato con noi, con me, con Gianni, ha detto sta andando a Porto Ottone perché ad Olbia non è riuscito a imbarcarsi, hai capito? Dunque sta ritornando indietro a Porto Ottone per imbarcare. Positivo, allora no. Non metto parole. E capa, comunque, se mi dici qualcosa, Gigi, sai che c'è un amico? No, se non mi sono cadete non c'è un piano rotto, però se non ti ricordo bene, ti immagino che ci sia. Guarda, 77, 19, 76, 7, 7, 19, 76, giusto? K, K. Sei più calda, fino. Prova a giocare, buttaci 2 euro così, o 1 euro, e se esce a meno fai 1 euro e 1 euro, 2 euro, 1 euro all'anno, 1 euro al terno, becchi più di 5.000 euro. Euro? Con 2 euro sì, contando 1 euro all'anno e 1 euro al terno, becchi più di 5.000 euro. Se voglio giocare 10 euro, per portare per esempio, non so, 8 euro al terno, no, all'ambo e 2 euro al terno. Oppure fai 5-5, 5 all'ambo e 5 al terno, se lo becchi alla ruota fissa sono benina, un bel, perché sono, per conta, puntando 5 euro alterno sono 21 milioni, 22 milioni e mezzo, più gli ambi, tre ambi, hai capito? Ti considerano da 5 euro, un ambo solo da 5 euro fa 1250 euro, fa il conto, per tre sono altre, intorno ai 30 milioni, 35 milioni in tutto. Magari. Eia, dimmi già. Ok, ci sentiamo più tardi se coincide, dai, ciao, buon trabacco, buon tutto, dai, avanti G. Oh già, dai, saluta una città un bello, te lo vira, produttore. Ciao. Positivo questa parola, ma no, tu non lo conosci, ci ho preso, già ti posso dire. Forse l'avrà già parlato tante volte. Giuseppe, tu non lo conosci a chi c'è un bello, no? Sì. Grazie a Dio se ti aiuto la Catrina. Leo. Sì. Ma lo succede dove va la Catrina? Certo, non ce l'ho visto. Secondo me è riflettato in fabbrica. Gli altri erano normali, con la schedula, no? Questo fino. Certo, ho visto, infatti l'ha piegato, non il tirante, l'ha proprio piegato, capito? Pure era tirantata in due punti, l'ha piegato. Minchia. Bubu. Non lo so. E quindi adesso cosa fai? Beh, non esce l'antenna, esce lo stesso. No, la lantenna ho buttato giù il palo, ci sono un metro di palo e ho appoggiato, l'antenna l'ha spezzata anche, capito? Quindi c'ho un metro di antenna, l'ho accordata un po' col guardiano, poi proviamo, sicuramente riesco anche a uscire, ma adesso devo, la prima cosa procuro un tubo schedulato, metto il tubo schedulato, adesso basta, non ci vado da fusare a pigliare i tubi, non servono a niente, vado da Marcello e prendo direttamente un tubo schedulato, che è quello che può arrivare qualsiasi cosa, quello da Ponteggi, quello già non lo piega, solo devo riuscire a portarlo intero qua, capito qual è il problema? Sì, anche se te lo fai tagliare, lo filetti, lo fai filettare, tubo d'acqua prendi, lo fai filettare da una parte e dall'altra, lo tagli e poi lo aggiungi col raccordo. Metà e metà il raccordo, non lo piega manco se ti ammazzi, come che sia saldato, come che sia normale, capito? Io ho lavori fatti così, a lavoro, alti 4-6 metri, tubi dove mantengono flogget, dove non mantengono giranti che pesano più di 100 kg e non riguarda assolutamente niente il vento, vai tranquillo. Te lo fai tagliare, a quanto lo prendi? A 4 metri. Te lo fai tagliare a 2 metri, da una parte all'altra filettato, poi compri il raccordo, quando sei lì ne metti la canapa, il raccordo, lo stringi bene e lo tiri su. Vai tranquillo che non riguarda nulla, niente le farmi Fabrizio. Ma faccio così, no, così oppure io ho il torcio, quindi non mi costa niente, li faccio sempre gli spinotti qua, che entrano a parte in parte con una battuta ed è un lavoro ancora fatto meglio, non posso fare, c'ho il torcio. No, io devo portarlo almeno tra un arco dell'altro un 8 metri, capito, sull'ormai. che porto almeno 6-7 metri lo devo portare su, quindi che faccio tre spezzoni, che ne so, da 2,20 metri, 2,30 metri, e poi gli faccio come due spinotti e lo rimonto su. E l'unica è quella, se voglio stare tranquillo l'unica maniera è quella. Se non vuoi lavorare, Antonio, te l'ho detto, te li fai filettare. La distanza del raccordo, adesso non so se 10-15 centimetri. Dopodiché, quando sei lì, le metti la piana, fa quella pasta, li filetti metà e metà, che tocchino i tubi filettati uno e uno, capito? Col raccordo da un pollice. Tutti così, e poi lo tiri su. È come che sia intero il tubo, vai tranquillo Fabri. Sono 20 anni in mezzo ai tubi, già lo gioco. Non perde assolutamente niente. L'importante è che le filettature siano, una volta filettato il raccordo, siano praticamente, arrivino a toccarsi, capito? Calcoli la filettatura e arrivano a toccarsi. Tutto è pur certo che è come che il tubo sia intero. Come che il tubo sia intero, Fabri. Non vi vale assolutamente nulla per fare praticamente per fare prima, e te lo ripiazzi com'era. Lo so, sì, o così, no, intanto lo metto, un pollice lo metto più grande, da 45, da un pollice e mezzo lo metto, un pollice e mezzo, quindi ancora più grosso, perché quello da punteggio 48, capito, mi viene bene perché ho già la morsettiera giù, ho i morsetti giusto per quella misura, ci metto quello ed è a dama. E vabbè, ma invece di fare filettare devo chiedere, prendo un aglio, prendo dei bei spezzoni di tubo che entrano dentro, li tornisco perfetti da mettere a misura, capito? Con degli innesti, gli faccio la battuta per un divertimento, già lo sai che io me ne vado in garage a rilassarmi, quindi non è un lavoro per me, ci mancherebbe altro, credo lo faccio per 1000 persone che sono lì a fare un lavoro a un all'altro con molto piacere, immaginati se non lo faccio per me. E poi niente, adesso vedo di riprendere antenna nuova, devo chiedere a Grode, mi pare ne aveva una tipo la mia, se no la prenderò poi, diciamo di prendere un'altra antenna, decidiamo quale. Prendi la Mantova, se rimetti quella, non so, io avevo montato la Superstella, era una volta, quella che hai detto tu, tiene un sacco di watt, ma non me ne ha fatti nulla, però il vento se l'ha mangiata in pochissimo tempo, capito? Mi ha attaccato tutti i radiali e poi è partito il radiale centrale perché è molto fine, e allora niente, e allora quando ho ripiazzato la Mantova. Per me, per il vento, io parlo per il vento, non per le caratteristiche tecniche, perché stavamo parlando, volevo fare un Giampaolo sul 45. Le caratteristiche tecniche della Ringo sono simili a quelle della Mantova, c'è un dB in meno, solo che l'antenna è meno affidabile perché è molto fine, però per questioni di spazio va bene, ha un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, capito? Per questioni di spazio. Però la Mantova non la supera nessuno per robustezza, capito? Per alte temperature, per il vento, per quello, per quell'altro, non la supera nessuno. Lo so, ma infatti mi dispiace, questa si è... Oh, è tutto buono, se trovassi... Quello che non ne vale la pena trovare i tubi e ricommettere in alluminio, tagliare gli innesti e farla un po' più robusta, perché si sono rotti proprio, ma era già un po' così quell'antenna, in effetti è molto leggerina. Boh. Adesso vediamo, ma a me non era un problema, anzi il vento lui piegava bene, ha proprio piegato un tubo, c'erano tutti i tubi, non immagino, uno di quelli, infatti sono andato a vedere, che lo prendevi con un dito leggero, di quei tubi che non hanno consistenza, proprio niente, ci sono quei tubi di antenna un po' più grossi, questo proprio, io non lo so che se si può vendere un tubo del genere, che poi non era un tubo da un pollice, era un tubo grosso, cioè parliamo di tubo da tubo da 35, tubo da 40, era un tubo da 40, cioè non puoi fare un tubo da 40 che è carta velina, capito? Quando ti si piega te ne rendi conto, però nemmeno lo stai innestando, non lo vedi, non ci pensi, no? Lo so, no, io c'ho un tubo, io c'ho un tubo da un pollice e mezzo attaccato al muro e poi un pollice di 4 metri che sull'antenna io tiranti non ne ho tiranti, capito? Quando il tubo è buono comanda tutto e pertanto non ci sono problemi. E vabbè Fabri, sono cose che succedono. Quando uno tira su così le antenne di 8 metri, è chiaro che se tu li avessi messo i radiali a 4 metri e poi in punta, quindi 3 radiali a metà del tubo e 3 radiali in alto a 10 cm sotto i radiali, l'antenna non ti sarebbe spezzata. No, ma dire così, ha fatto bene, i tiranti sì, è un tubo proprio, tra un coso e l'altro, l'ha piegato, ma lei deve essere oscillando, ta ta ta ta ta ta, c'è che tiranti un pochettino, no, questo ta ta ta ta ta ta, piano piano, col vento magari dell'altro giorno di oggi, tra che cazzo l'ha piegata, cioè è assurdo mica la possa piegare, infatti io infatti quando mi ha detto mia moglie, mi ha detto dal signore vicino, ha detto che è cosa l'antenna, fanculo, ha detto sicuramente si deve essere spezzato l'antenna, non ci pensava al palo, invece rientrando, cazzo, proprio il palo è sceso, cioè l'ha piegato, i tiranti non è successo niente, e adesso farò un lavoro ancora più ben fatto, questa volta lo facciamo meglio, facciamo così, vado e prendo dei tubi, fai 2,5 metri sono 4, 6, 7,5, da 2,5 metri l'uno, me li faccio tagliare da 2,5 metri l'uno e poi mi innetto così poi me lo posso regolare giù e via, gli metto l'antenna lì, ti chiedo una mano anche al Grote di darmi una mano, perché si serviva quella volta di darmi una mano, vediamo lui se c'ha, ho visto che c'ha lui c'ha una stella, lui si avrà buttata da una parte, se te la chiedo, se no quello chiamo, se no mi metto su internet e la ordino subito, così prossima settimana ce l'ho qua e la rimando. No, diciamo che comunque un po' di ascolto me lo posso fare il 27, ma guarda, aspetta che ti chiamo a vedere come mi senti, c'ho un pezzo di cile rimasto, lo stilo ce le prende, la carica con lo stilo di un metro sarà. Ma prova, sono 10. Ma che prova a accordare a vedere? Sì, diciamo che a 2 rimane, a 2, più di 2 non riesco a scendere, è un pezzetto di tubo lì. È chiaro, perché non c'è piano di massa e quindi non ce la fa raccordare. Non ho sentito, già ti sento, non c'è un problema. Ah, addirittura mi sono dimenticato una cosa, non ci ho messo nemmeno radiali, capito? Sennò forse avrebbe accordato, e senza radiali. Ecco, per quello, ecco perché. Ecco il discorso che avevo poco fa con Giancarlo e con Santo. Vedi, la mappa va sempre radiali e come hai fatto tu adesso non accorda, perché? Perché non ha piano di massa. A differenza di un'antenna che è scelta radiale tipo la Ringo, quella anche se è a metà, se si rompe lo stilo centrale, accorda lo stesso, perché il radio è verticalmente, cioè il piano di massa è in verticale, capito? Non avendo radiale è cortocircuitata la bobina. Infatti, è tutto giusto, non ce l'abbiamo di massa, è tutto giusto, perché quello è un mezzo, quindi non mi serve il piano di massa, invece questo essendo 5 ottavi necessita del piano di massa, e col piano di massa hai visto che non riesco ad accordare, cioè scende, me ne butta 2, ma più sotto di 2 proprio sta provando ma non ce la fa. Ah beh, io sto per ascoltarvi e un saluto, ci riesco, poi prossima settimana come arriva tutto cercherò di piazzarla. Io voglio farvi dare i cifabri. A me da parlare così non ce n'è problema, capito? Non ce n'è problema. No, è 5 ottavi quell'antenna lì. È 5 ottavi, c'è due modelli, una 5 ottavi e una mezz'onda. Quindi lavorano tutte e due cortocircuitate e in più l'altra c'ha i radiali. No, ne avevamo già parlato di questo. Non c'è problema. No, quasi a te rimangono. Ma scusa, per non ti conviene ordinatela. Oggi è sabato, vai su internet, vai, clicchi Mantova antenne, vai sul sito della Mantova direttamente a Mantova e te la fai mandare dalla fabbrica che costa molto meno, scusa, nuova, cosa, se la spediscono lunedì, la spediscono lunedì, mercoledì c'è l'antenna, ho ordinato tutti. Che è su dell'occhiata? No, perché mi ne ha una come la mia, una stella l'ho visto, come la mia, capito? Quindi a me mi andava bene, adesso vediamo. Adesso do un'occhiata, mi accendo un attimo il computer, cosa cerco? Mantova antenne. www.mantova più uscire. Allora, se mi fa piacere, contento che sono riuscito almeno a smontare tutto, mettere tutto sul terrazzo, anche se c'era un freddo qua sopra, mica, ho smontato tutto e tutto messo a posto, poi con calma la rimonto, perché anche il dipolo me ne ha buttato tutto quanto, me ne ha buttato a terra, dipolo e tutto, l'unico l'antennino che c'è 10 anni, fa anche quell'antennino là, in ricezione che poi faccio anche lì, l'unico è quello che è piccolino. L'altra è durato poco, vabbè, le cose che capitano, queste sono stupidaggini là. Certo che sono cose che possono succedere, chi ha le antenne alte, che si pieghi il palo o che ci sia un problema sul palo. Capito? Sono cose che possono succedere, non è che ne devi fare un problema o Fabi. Quindi vai a vedere su quel sito lì, fai www.mantovaantenne.it e ti dovrebbe dare il sito della fabbrica della Mantova, proprio a Mantova. Capito? E te lo ordini direttamente da lì. La paghi molto ma molto meno. Adesso do un'occhiata, anche perché non, adesso ci ho pensato, non vorrei che sto distruggendo le televisioni uscendo in questa maniera, capito? Quindi la mia, vediamo la mia. Oh, no, sembrerebbe no, non vorrei distruggere quella del vicino, così poi mi picchia. Esci che allora faccio QRT e controllo quella Mantova. Allora, ci sentiamo più tardi qua, così o qui o lì, poi ti faccio sapere cosa ho trovato, poi chiedo a Cagrode a vedere e poi si deciderà. Ci sentiamo dopo, grazie Cla. Fabi, non c'è problema, se hai bisogno di una mano quando cambia il tuo tempo di settimana, fammelo sapere, chiaramente di sera, di pomeriggio, dalle 2 in poi, a tua completa disposizione, ci sentiamo dopo se coincide allora, ciao Fabi. Ciao Cla, buona serata e buon sabato, a dopo. siamo in UHF, è molto molto stretta. insomma, infatti. Capito? L'hai sentito, Grode? Già ti ascolta, non ci sta ascoltando, però ovviamente lui non ce la fa, dove vuole andare con quel giocattolo. Ascolta, dove sei nella zona alta? Al Baga Baga, sì, dove sei? Al Baga Baga? Sì, ha detto al Baga Baga. E se tu ti giri sotto, se sei nel giardino del Baga Baga, guarda, e sotto c'è l'impianto, mi ha già fatto rincarne in chi. 5 anni ne ho fatto lì, cazzo, un freddo da cane c'è. Mi ha detto che sta rientrando. No, ma tanto anche io sto cercando questa roba su internet e quindi sto stupido. Lo senti? No, non mi fare chiamare, cazzo, perché tanto mi senti che io sto, devo fare roba qua là. Claudio, ogni tanto fagli qualche chiamata al Grotte, l'hai sentito? Sì, non lo sento, ho sentito a te, non c'è problema, vai. Avvicinati, inizia a partire e poi ti faccio chiamata, già sono qua in ascolto, Antonio, non c'è problema. Dai, io proseguo a fare questa roba qua, fagli una chiamata ogni tanto, dai, e anche lui ti chiamerà. Dopo, cla. Gappa, Fabria, dopo, chiamatemi, non c'è problema. Grode. Antonio? A mi accoppi. Io non ti accoppio. Ti sento, Anto, ancora, avvicinati, non ti sento. Senti, Anto, e adesso sì. Quindi quello di Platamona? Ma eri lì al Baga Baga? No, sicuramente la ferrata me l'avresti preso, sicuramente sì. No, è una bella zona, quella è lì, ci ho fatto 5 anni e ci avevo anche l'antenna lì quando facevo i turni. Non so se c'è ancora, non so se te ne sei accorto, c'è un'antenna sul tetto centrale, una verticale, dai, monobanda, VHF. No, sotto, se tu esci fuori dal Baga Baga, sotto quell'impianto che c'è di potabilizzazione, lì lavoravo io. Ha fatto 130 km orari il maestrale a mezzogiorno. Il maestrale di mezzogiorno, la TV ha dato 130 km orari e pare che sia in rinforzo, tant'è vero che le navi non sono partite. Poi lì, te l'ho detto, mi ho fatto 5 anni con l'impianto io lì, mamma mia, quando c'era il vento non potevi tenere niente, dovevi stare proprio dentro, all'interno, senza neanche uscire. Come sei stato quindi? Bene? Eppure fantastissimo questa cosa, guarda, io per me il ristorante, vabbè, non in costa, però i ristoranti dove si mangia veramente bene, sui matrimoni è la Maison qua a Sassari. Nominato questo Baga Baga, non so cosa va, di qui e là, invece una grandissima stronzata, ho capito. Ha detto Fabrizio, ne hai caduto l'antenna? Ho detto di guardare su internet, direttamente sul sito della Mantova, capito, proprio la fabbrica di Mantova, che è a Mantova, della Mantova, a tutto Mantova, e vedere un po' se gliela possono mandare da lì, perché io l'avevo ordinata qualche anno fa, l'avevo ordinata direttamente da lì, capito? Se le stanno ancora mandando, se prendono gli ordini, e costa 90 euro, scusa, costa 90 euro, Capograssi ne vuole 130 euro, è un pazzo furioso. E quando fai lavori così, o li fai in una maniera, fai con tubi innocenti, quelle cose lì, se metti tubi telescopici, no, non va bene perché è troppo alta, credo sono 8 metri, no, non va bene, capito? Non pensare, non è che ti contraddisco, ma non pensare, perché io l'avevo fatto qualche anno fa, praticamente, come ho detto a Fabrizio, un tubo da 4 metri, di quelli d'acqua da un pollice, però il mio problema era portarlo su al nono piano, adesso non ho problemi, perché sono al secondo, quindi lo leggo, lo tiro su, capito? No, portarlo al nono piano, perché l'ascensore non ci stava, ora l'ho fatto tagliare da 2 metri, l'ho fatto filettare, e noi usiamo quei raccordi zingati da un pollice molto molto grossi, e l'ho messo la canapa, l'ho filettato, farei toccare filetto e filetto, quindi bene rinforzato, e ce l'ho ancora sul tetto io, ce l'ho ancora sul tetto, capito? No, mica si piega, perché non ce la fa piegare da un pollice però, attenzione, non da tre quarti, da un pollice. Pollice, non ce la fa piegare il dove c'è il raccordo, accanto quel raccordo è da un pollice lo stesso. No, sicuramente quello che il problema è lo spessore del palo, capito? Lo spessore interno, nel senso che deve essere almeno più di un millimetro. Quelli di Chemese Cusaro, che sono fatti da antenna televisiva, e questi soprattutto telescopici sono davvero fini, ne ho uno. Sicuramente utilizzerò adesso per mettere quella della UHF che mi hai dato tu, che va bene perché è leggera l'antenna, non fa vela e non ha problemi, ma con un'antenna come la Turbo, che è imponente, assolutamente non lo metterei mai. No, la Mantova pesa di più, quella va bene per una Ringo, per un'antenna così, della Diamond, del VEU. Allora il discorso regge, ma quando tu metti una Mantova, la Mantova purtroppo è un'antenna molto molto rinforzata, quindi il tubo stesso in alluminio, il centrale, pesa e flette, quindi ha bisogno di un sostegno che sia almeno da un pollice. Sì, quello che c'ho io è da un pollice, è da un millimetro addirittura e mezzo, da un millimetro e mezzo, perché sono tubi d'acqua dirette. E quindi sono molto molto spessi per il calcare, per la ruggine eccetera, capito? Ci vuole uno di quelli per segarlo e giuntarlo. I tubi telescopici per fare una qualificazione così da 8 metri non serve a niente. Prendi 2, 4, 6, una verga da 6 metri, il tubo da un pollice d'acqua, zingato, lo tagli a 2 metri, 2 metri, 2 metri e poi fai le giunture con il raccordo sempre da un pollice con la canapa. È eterno. Metti tirati 3 sotto l'antenna, quindi proprio sotto i radiali, e 3 li metti a metà, tu stai pur certo che l'antenna non ingaggi più, vai tranquillo e alla grande. Ce l'avevo anche in via Pasco io così, e non è mai caduto, è rimasto 3 anni lì perfetto, il giorno che è arrivato quel cacchio di temporale che si stava portando via Sassari, manco si muoveva il tubo. Mentre stavi modulando adesso, pollicina, mi ha fatto notare, lei che non sapeva, lo senti questo fischio? Sente ancora quel fischio, è un sibilo, come dice lei, è un sibilo, ce l'hai sempre. Ho scoperto che cos'è. È il, come si dice... sai che va in trasmissione, quando tu schiacci la portante va in trasmissione la ventolina, no? E praticamente ho messo l'orecchio e fa capito, se lo porta dentro. Anche lì, boh, non ho capito, la radio nuova, bisognerebbe smontare la ventolina, lubrificarla e farla e sparisce questo cacchio di rumore. Pure io sono molto contento, guarda, sono pronto a farmi lavorare. Come mai lo fa solo in UHF? Solo in UHF, in 27, in VHF, da nessuna parte, neanche io ho anche il VHF marino, un ranger di quelli, insomma, marino, dai, e ho provato anche lì e no, non lo fa, in VHF ho fatto le prove con Marco stamattina, non lo fa, solo in UHF lo fa. Ed è proprio questa radio che io uso solo esclusivamente in UHF. Sì, è carico adesso, non c'è problema. No. Se no ti rubi glielo fai tu. Posto dalla tastiera, poi vado a schiacciare la portante e mi dà error. No, ma allora evidentemente va a questo brappello, il computer, evidentemente questo internet è una sola frequenza, se tu lo vuoi limitare quello lì, basta che entri nel software, effettivamente nella condizione di funzionare, molto male. Sicuramente è aperto, cioè è chiuso. Ciao quindi anche a Pollicina, non ti ho sentito ma ti saluto e ti abbraccio. Ok, rimaniamo d'accordo così, te lo prendo e lo fai tu, è inutile che mi metta io a pasticciare se non ne comprendo nulla. Tu l'hai già fatto, lo prendi e lo fai, capito? Gli occhiali, sì, me ne ho comprato un altro paio. C'è scritto, perché poi si illumina tutto questo, capito? C'è la tastiera tutta illuminata, fissa. Io ho 465 125, che è quella dei vigili urbani. Non lo sento. E vabbè, io ho sentito, vabbè, c'ho quella lì, niente. E poi vado in VFO. Però, ecco qua, questo dovrebbe essere VFO memorie. Qua infatti è VFO memorie, ecco, memoria 1, 2, 3, ecco, queste sono tutte memorie PMR, ecco qua, memoria PMR, più PMR sono tu, no, giare, il VHF e una mano là. Tasto memo che è quello giallo arancione, diciamo che c'è nella parte bassa sotto il display in alto a sinistra, dovrebbe arrivare a VFO o scritto stream FDC, c'è scritto, no, e non ne ha di questo, di niente. Allora tu vai in VFO e ti dà praticamente, parte da 430, capito? Parte direttamente dalle UHF. Ma è un bipartito, hai la possibilità, c'è il metro, il display, due frequenze, ne vedi solo uno. No, è un monobanda, è un UHF questo, tu. C'è anche scritto UHF e PMR fa questo. UHF, PMR e LPD. Così. Sì, la frequenza più bassa è quella più alta, e poi vediamo dove riusciamo ad aprire. Ce l'hai marca e modello? Il modello lo trovo, è scritto in piccolo sopra il display. No, non c'è scritto niente tanto qua. Domani ci vediamo, te lo faccio vedere. Non c'è scritto niente, nulla, proprio zero sotto zero. Tutte le frequenze LPD, le frequenze PMR e tutte le frequenze con tutti gli shift sempre UHF amatoriale. E boh. Presentato già. Parte da 430 a 440 bande amatoriali, poi dal canale 1 PMR al canale 8 mi pare, non lo so, e poi dal canale 1 al canale 24 LPD. La parola, è da vedere, perché secondo me è chiuso, guarda quel canale che io vedi che lo apro alla grande, quantomeno la sicurezza è solo. catalogo e lo provi tu, perché io qua vedo solo UHF, frequente UHF. Come la marca? No, FDS è la marca, c'è scritto FDS e bu. Non è cinese questo, è sicuramente cinese. È roba che mi ha dato, te l'ho detto, Dore, la buona mia è Dore Lai, capito? Quindi non mi ha dato, forse c'ho anche, sì, c'ho anche il manualetto che devo cercare. Dimmi. Cos'è che stai facendo? Leggendo un po' su internet, perché per capire che antenna prendere. frattempo. Non è così, ma guarda che io ce l'ho avuto tutte e due, la montate, ho fatto tutte le cose che facevo le prove. Una rallentava leggermente, qualcuno mi diceva la radio, ma perché tanto la 58 era più alta, mentre la Mantova rimaneva più bassa, rimaneva più bassa, quindi però poi alla fine non è che ho migliorato molto, Non so, cioè io quando parlo non è che parlo perché so più degli altri, è perché ho avuto l'esperienza, capito? Arrigo e cioè, sono i due modelli, una mezz'onda e una 58, e sono due antenne eccezionali, non hanno problemi. Soldi di uno c'è radiali, uno no. E gliel'ho spiegato a Giampaolo, ho detto guarda che la funzione radiale non ha nessun significato con la questione della ricezione della trasmissione. I radiali servono per il piano di massa, tant'è vero che se tu monti la Mantova come hai montato la Ringo, praticamente a piano di tetto, con la Mantova non usciresti per niente perché ti avresti un rientro di RF, perché il piano di massa è troppo basso. Con quella tu la puoi montare anche sulla manta della finestra, non ha problemi, perché il piano di massa è centrale, è nello stilo centrale, quindi irradia verticalmente. L'antenna, la Mantova, irradia verticalmente, ma il piano di massa deve avere una circonferenza un pochino più larga e un piano di massa dal tetto, almeno di 3-4 metri se vuoi che lavori bene. È tutta lì la differenza, ma non è che una riceve meno e l'altra riceve di più. Oh, a volte si parla, però non si riesce a capire che cosa, capito? Ma è così, come dici tu, sono d'accordo. Io ho fatto le prove, classe, ti ricordi, ho fatto le prove, ce le avevo montate tutte e due prima di buttarla a terra una, ed era così, non cambiavo un cavolo. È così, no, ma io ho portato subito, senza fare nome, il discorso di Antonio, capito? Che quando l'ha montata, a prescindere vabbè che c'era stato mi pare un errore eccetera, ma quando l'ha messa a posto non è che cambia molto, arriva a 9 più 45 da vicino a te, mi arrivava ma un pelino meno con l'altra, capito? Ma è forse perché l'ha sollevata, perché ha fatto gli accorgimenti eccetera, ma quella lì, quella Ringo lì che l'ha montata vicino a me invece, no? Per capirci, c'è un segnale allucinante, ed è bassa, è messa non so dove, c'è un segnale allucinante, capito? Quindi cosa parlano di antenne se neanche sanno di cosa stanno parlando? Boh, non capisco io. Boh, non lo so, la capisco, ognuno la pensa come vuole, però per le prove che ho fatto, probabilmente, vedi, quello sì, a lunga distanza la 58 potrebbe andare meglio, a lunga distanza, ma qua intorno non vedi nessuna differenza. Io ti posso dire che è una signora antenna, non è che bisogna dire non serve qui e là, sta ricevendo al 50%, al 20%, sta ricevendo al 100%, perché io adesso non ne ho nessuna voglia, ma a quest'estate io una di quelle antenne la voglio montare qua sul tetto, sotto commutazione, faccio io le prove poi, vediamo, le faccio io le prove, stacco il cavo senza fare neanche molti giri, stacco su il cavo del dipolo dei 50 mega, giusto per fare le prove, e lo attacco a quell'antenna lì, e poi vediamo a vedere dov'è la differenza, senza radiali, voglio proprio rendermi conto, perché sembra un pochino strano, tanto dove sei arrivato? Vai al canale 10, va, così animiamo un pochino, che mi sento molto spenti, e stamattina sono entrato io, c'era il mondo, c'era Giulio, è entrato Tonino da Osi, è entrato Coso, Giampaolo, Sandro, tutti buoni di fatto. Altro manco io in questo canale 10, te, tutta la sera uscì. Tanto per rallegrare la serata. Bravo. Anche Salvatore, quanto ci sia un colpo importante, tutti saltano fuori. Buonasera a tutti, Carlo Sparaglione in aria, ciao Antonio, Salvatore, Fabrizio, Massimiliano Archimede e chiunque voglia entrare, il canale è aperto a tutti. Un silenzio totale c'è qua, ma non mi devo telefonare, però c'è di ristoranti e di cose simili, la radio la tiene spenta. Ma Fabri, per favore, Salvatore, anche tu, sempre in letargo, insomma, non mi telefono più io, la prossima volta non mi accendo più radio, avanti grotte. Ma Roger, ben sentiti e ascoltati a Salvatore, a Massimiliano Archimede, a Fabrizio Ace of Cat e a Claudio Sparviero. Da questa parte il Grote che vi super cordializza ed è sattollo da un pranzo nuziale che ha fatto davvero cagare. Avanti Salvatore. Io sono sattollo dalla di stanchezza di una settimana terribile. Sono alle prese con AM Radio Deluxe e non ne sto cavando piede. Riprendi riprendi Claudio, buonasera a tutti. Guarda, AM Radio Deluxe io ce l'ho, ti posso dire che poi anche non mi cantate lascialo perdere, metti il flatter e fai le retratte, perché io ho la versione, quella pagamento, che praticamente è la versione, non so se è giornata accetta, non lo so. Sta il fatto che non mi inserisce i dati di corretta.com e quindi ogni volta che faccio il collegamento devo prima metterlo su corretta normale e poi trasfilo sul tratto così chiamato, sul log di Amoradio e quindi alla fine mi sono rotto nettamente le palle, perdonatemi, ero lasciato così. Ma che vada a cavare, lui ama Radio e i soldi se li fa dare dalla moglie perché io soldi non ne ho. Avanti Massimiliano. No, ma lì è un problema di corretta.com che hanno cambiato alcune cose, adesso per fare quel lavoro lì bisogna versare una quota e se la pigliano in Napoli. Poi già sicuramente qualche cosa gli uscirà. Puglia. Poco costo, per carità. E niente, lì non è un problema di AM Radio Deluxe, ma è un problema di QRZ.com che hanno mangiato la foglia, vedono che ci sono molti accessi, non gli bastano i soldi che ricavano dalle pubblicità, vogliono anche i soldi da noi, ma male gli viene. È troppo tirchio. Successo qua? No, diciamo che non la radio accesa. Aspetta, tu cosa stai usando di programma di AM Radio Deluxe che tra l'altro ma ci viene da scaricare? No, dunque oggi mi sono messo a fare vi aggiorno sugli ultimi arrivi. Mi è arrivato quel famoso pacco dall'Illinois dove avevo ordinato il cavetto e i componenti per dotare il mio K della possibilità di dialogare con un PC, no? Quindi oggi mi sono messo a saldare i componenti vari, ho fatto tutto quanto e nel CD c'era una versione di AM Radio Deluxe. Però siccome era un po' datata, allora mi sono collegato al sito e ho scaricato l'ultima versione. E quindi credo che sia l'ultima, però mi ha lasciato perplesso perché è datata 2010. Ehi, scusa, è l'ultima, sapete che il tipo che il programmatore praticamente per il momento l'ha abbandonato, ho capito, ed è fermo così. Quindi già è giusto? Ah, già è giusto, ho scaricato anch'io da poco. Penso che con Windows 7 64 bit non funziona. Ho dovuto provarlo con il coso, con il 32 bit. Però è fermo, si è fermato il 2010, evidentemente o si è rotto le scatole o ci sta lavorando, non so. Che poi la cosa curiosa è questa, cioè il build date, la data di ultima diciamo creazione dell'eseguibile, ma da 29 marzo 2011, questa qua, versione 5, build 2893. Quindi non riesco a capire se il progetto poi è comunque andato avanti e quest'anno hanno rilasciato quest'ultima release. Perché tu Clani hai un pagamento? No, chi è stata poi fa una donazione, ma non c'è registrazione, è libera e free. E allora è questa l'ultima. Magari si è confuso. Boh, comunque, ma è possibile ascoltare tramite PC l'audio della radio con AM Radio? Oh, via segnale no, devi fare una cosa banale, prendere l'uscita F del computer e farla rientrare all'ingresso, alla in della sede audio. Allora sì. Dica. Come mi stai ascoltando, bacino? No, come mi stai appiccicando? Perché come mi ascoltavi prima? Oh, sempre così, 9.20, 9.30, 9.40. Ah, 9.30. Perché mi è caduta l'antenna e sto uscendo. Prima era 8 metri, c'era 7 metri, 7-8 metri più antenna. Adesso c'è solamente la Stellar, ci sta uscendo un accordato e più di due non scende come stazionarie. E c'ho l'antenna senza radiali e con la carica più un metro di palo messa attaccata al torrino, quindi buttati giù gli 8 metri di palo, quindi non c'è bisogno di cambiare antenna. Oh, va bene, potete aver accordato anche il palo direttamente, ma ti ha piegato il palo o mi è caduta proprio lì dal palo? Si è piegato il palo, ci aveva dato un palo che era senza schedula, ma adesso ancora l'ha piegato come una banana questo vento, e quindi giusto questo, almeno ascolta, invece sta anche uscendo accordata, tu cos'è? C'è la stella, no? La carica con un metro di tubo, senza radiali, appoggiata sul palo di un metro, immaginate un po'. Niente, va bene, dovresti allungarlo un po' il radiale. Dai lunghi invece a accordarla bene, anzi ti scende. Dai 2,50 metri, giù di lì. No, adesso intanto la devo cambiare perché ho ricostruito il radiale centrale, ma è difficile tanto ricostruirlo. Devo trovare i tubi, non saprei nemmeno dove trovarli. Allora, i tubi li trovi, io ce li ho. Ho fatto un radiale da 10 metri con i tubi a telescopici metrolatori in alluminio. Da io bricco, l'avevo presi, avevo trovato tutte le misure. La bricco man? Io bricco, non bricco man, io bricco. E dov'è? Poi dov'è? Dove c'è il call center? Io bricco, ma dove viene Porto Torres? E io? Dove c'è a fianco all'alto il center? Io bricco adesso, io li giro tutti ma non guardo mai i nomi. Adesso vale, o gli cambio quello stile oppure la compro l'antenna nuova, quindi non so nemmeno dove la prende, stavo pensando la mantova turbo oppure quella che stanno usando Falchetto, come si chiama? Quella che c'è anche Pomponio, amico, come si chiama? Tutti spariti. Non me lo ricordo come si chiama. Quella che c'ha Pomponio, ce l'hai presente, la 58. Come Fabri? Volevo cambiare antenna, cosa mi consigli? Vabbè, tu già ne hai spazio di sopra, puoi fare quello che vuoi. Ti mi prendi la Mantova, mantieni così, e 58 e sei a posto. Poi io ripeto, io mi ho preso la Ringo perché a me non è che me ne freghi più di tanto, poi con tutte le antenne che ho attorno, a me un'antenna piccola mi serviva, e poi la uso anche molto per i 10 metri, perciò no, va bene, cioè per me io mi sono sempre andato bene con la Ringo, anche se ho visto, devo fare qualche lavoro perché quando piove zoppica. Ma io, se c'è la possibilità di trovare la Malta, la Malta Turbo, con quali fai, è robusta, tiene e poi ha una regola. Se no, quella che hanno preso loro, la che vende anche cosa? Aspetta che guardo, te lo dico, come si chiama. Dimmi una cosa, cosa vuol dire guadagno relativo? Guadagno relativo a che cosa? Cazzo, tutte le antenne non ti dicono il guadagno effettivo, ti dicono, per esempio, la Mantova Turbo te la danno per 8 dB, ma dicono guadagno relativo, ma una verticale non può dare 8 dB, 3, 4, non di più. Guadagno relativo al dipolo isotropico sicuramente hanno fatto due cose, ma lascia un tempo che trova, a tutti i dini. Se c'è un paio di DB di guadagno, tre, anche tre, forse ci siamo. Ma molto, ma neanche a parlarne. Aspetta, dico, Brode, com'è quella che c'ha Falchetto, come si chiama? Cazzo, non rispondono questi. Brode. Non so cos'è Intec, Mido, che cos'è? La prima volta l'ho detto Energy, deve essere qualcosa di nuovo, relativamente nuovo. Allora, Energy 5 ottavi. Ma dico, la produttrice chi è? Sirio, Lem, Intec, chi è? La Midland. Allora dove faccio io c'è l'assistenza, ho capito, la CTE. Quella contro radiali. Ho capito, la CTE è la commercializza, la CTE International. E secondo te come va? Non lo so, non conosco le caratteristiche, dovrei leggermele tutti. Ti saprei dire. Fa una cosa, adesso faccio giro vedere questi tubi che poi fa una cosa, io infatti uno studio piccolino a vedere secondo te che cosa c'è sul commercio, a prescindere non mi interessa la spesa, cosa posso comprare? Per gli 11 metri, per 27? Sì. Vabbè, questo lo dico. Ma poi per quella cosa che ti avevo detto, ci hai pensato? Ci ho pensato, ma al momento non mi interessa. Adesso devo pensare a rimettere sull'antenna, poi ci penso, c'è questa cosa in testa. Vabbè, allora niente. Allora gli dico niente perché ci servivano a più presto. Vabbè, allora pazienza. Allora poi già, vedo un po' che cosa riesco, cosa vedo. Adesso controllo anche questo qua che mi hai detto della Midland, così ti dico. Ma queste antenne dei 5 ottavi sono quasi tutte buone. Il caso bisogna vedere l'aspetto meccanico, la bulloneria, come viene realizzata, se sono cortocircuitate o meno, che poi ormai sono quasi tutte cortocircuitate, vedere un attimino il luogo di radiazione, cioè queste cose qua sono, capito? Poi tutto sommato, per come facciamo noi qua a 27, va bene anche un dipolo, capito? A proposito di dipolo, oggi ho realizzato la Morgan 480, adesso poi appena ho tempo mi faccio l'altra e poi ce la metto su. Ho capito. Vabbè, io ci sto chiamando con il mio telefono, vi rispondo, vediamo un po' se vuoi uscire. Ascolta, io faccio correttivi, saluto tutti quanti, poi già ci sentiamo, vediamo tu che consiglio mi dai, se no alla fine prendo la Mantova Turbo e non sbaglio, va? Oppure riparo la mia, adesso vediamo un attimino di guardare questi tubi. Ok, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao Fabri. Ciao Fabri, alla prossima. La Pasqua. Pompon. Buongiorno. Ciao caro. Sono in apprendimento. L'apprendimento, sì. Il cappello. Sono qua che sto studiando questa affare. Io, vediamo come lo possiamo usare al meglio. Ma... Ah, che è caduta l'antenna, che è caduta con questo vento. Oh, se non ho capito male, quindi a Fabrizio. Così è, Massimiliano. Com'è che mi sono distraggiuto? Che è passata una ragazza qua vicino e mi sono distraggiuto. Anch'io ho passato una ragazza qua e l'ho visto di dietro e mi sono distratto. Scusate, che non te l'ho. Oh, Claudio, saluto tu. Ciao, chi è? Ecchi, io. Cazzo, non ho visto segnale, la manta delle varie, ho girato le spalle. Ciao, buona serata, ascoltato. Ah, ma va bene, se siete trovato anche io, sto usando un coso, quello di Pizzoni, un baracchino. Gava. Comunque già funziona bene la Energy 50 veicoli, come lo chiama PA27L. Si brigia, ma non si spacca, perché io c'ho una buona bella tetta là sopra il tetto. Scusa un attimo, Popo, ma che differenza c'è? Provato tra una mantola e qualche mantola e quella, hai provato qualche differenza? Ah, per me c'è molto bene come antenna, perlomeno. Io gli ho staccato i radiali originali, ci ho messo quelli della mantova. E suona che come un coso, la verità. Funziona benissimo, non ho nessun problema. Mi dà un buon guadagno, questo DX ne faccio parecchi. Capito? Mi dà abbastanza soddisfazione. C'è l'altro coso, ce l'ha. Falchetto quell'antenna, ho visto che parla con la zona di nuvolo, quindi. Non sarà quanto la mantova, però va bene, un'antenna leggera, pesa mezzo chilo, non è che pesi poi tanto. L'unico problema è 500 watt e poi di più non puoi dare, se no la asciugli. Invece quella che c'ha Giampaolo, per fortuna c'è che antenna è? La Ringo, da quanto mi ricordo io, c'ha Giampaolo di Porto, per essere un'antenna... Dovrebbe essere una metà, se non mi ricordo male. Va anche bene, non è che arrivi in basso Giampaolo, già arriva bene. Meglio se la grappa la verità esce. Però già vende la Ringo. Vabbè, la Ringo vera e propria, quella che abbiamo conosciuto noi, che era tutta fatta in rame, che aveva un buon guadagno a distanza. E infatti, quella lì era 5 ottavi, invece quella c'è già pure una mezz'onda. Esatto, sì. Io ascolto sentire nuove qua poi. Non so come lui mi ascolta benissimo, perciò per me sono delle ottime antenne, a prescindere dal fatto che qualità prezzo è quella lì, è chiaro che le prestazioni sono un po' differenti dalla Mantova, ma dico un po', non dico esageratamente, un po' differenti, perché io stavo guardando adesso proprio su internet e c'è un debito di differenza in eccezione, quindi non è che stiamo parlando di grandi differenze, con il fatto che una è 5 ottavi e l'altra è mezz'onda, perciò non è che ci siano molte differenze, capite? Tutto qua, vabbè. A chi toccava Salvatore, prendi avanti. K, registrato il break, avanti, buonasera. Ma non, scusa Salvatore, sempre il grotto, mi ero assentato un attimino senza, stavate modulando, c'era un passaggio lungo e non ho potuto dire che ero in quel race. Volevo chiedere a Pomponi, vabbè, com'è? E ciao Alto, siamo arrivati al tessatoio, quella tosta oggi lo sta fatto come l'hai salutato. Sembra che stucco, sembra che l'hai messo, bisogna che li stacco tutti quei finali che hai saldato, li riscaldo prima di provarlo, capito? Per sicurezza. Domani faccio sapere qualche cosa, domani metto io verso 11:30, una cosa del genere, là, che mi appento un pochettino. Vediamo che funzioni. Comunque io quelli lì sono buoni, devo controllarti. I finali non lo so, devo provare. Sì, comunque guarda, mi sono reso conto anch'io, non era lo stucco, come dici tu che ho messo io, o meglio lo stagno, che sembra stucco, ma è uno stucco, uno stagno che utilizzano loro, che ha, come si dice, a base di argento, di cose del genere, per cui ci vuole un'alta temperatura per scioglierlo ed è comunque raffredda subito, è una rottura di palle, me ne sono reso conto anch'io, vedrai, non l'ho messo io quello lì, assolutamente, io stagno normale. E vabbè, positivo, non è che è successo niente, no? Adesso domani non ho attaccato ancora nulla, la verità. Adesso domani li stacco e gli faccio le salvature nuove, così non si è mai arrivato la salvatura tra una con l'altra, quando la accendi li avvoglio, sai che ci sono 400 volte in quel transito. Danno un po' di tensione. Sono i primi due. Adesso vediamo un po', domani lo provo, vediamo se accende e se è pronta a ripiazzarlo. Ma scusa, l'ultimo passaggio, ricordati che c'è anche un diodo attaccato, ti ricordi? Perché lo stavo controllando col tester, quindi ho attaccato solamente una parte. Due diodi mi hai dato ieri tu, due diodi bianchi staccati. Ho voglia, c'ho anche lo schema, quindi non c'è problema. Sono attaccati al transistor. Un negativo, ce n'è un altro che ti ho fatto vedere nel vicino quasi a quella piastrina verticale che c'è, che staccato su una gamba. E me l'ho dimenticato di quello. Va bene, già te lo risistemo come si deve. Gava, riprenditela, altro fai girare. E il matrimonio, come ti è andato? Scoperto che si è affamato, quindi facevi mandare ancora dal supermercato a comprare la roba e mangiare a casa. Guarda, si è mangiato davvero male, considerando che, tra l'altro, siccome sono abbastanza amico degli sposi, mi hanno detto quanto hanno speso 75 euro a cranio, e considerando che eravamo 250, ma una porcheria, cioè tutto il pesce sembrava pesce in scatola, una cagata mondiale. Capita così quando sono in matrimoni, quando vai in ristorante così, o la carne oppure il pesce, se per qualcosa di strano c'è, capito? Oppure c'è il vampiro che a cantante si mangia tutto e tu lo mangi nulla. Per quello già non ci vanno mai i matrimoni, io preferisco trovare lo sposo di domani dopo che è stato al ristorante. A me lo, quando fai la cena la fai come si deve, tranquillo in casa. Sicuramente domani ricaverai un bel gente. Riprendi Salvatore. Ma non importa, è fondamentale esserci stati, poi la cagarella, tanto, o di riffo di raffa si fa sempre. E tu ultimamente, a quanto me l'hai detto, ti stai abituando? Io mi abbracciavo la tazza direttamente, figurati. Parogero, ma si vedia. Figlia, come sembra a dire, facciami la tazza, Salvatore. Poi dopo, dimmi poi com'è andata quel lineareto con quei diodi, Antonio. Prima Salvatore, poi dopo rilancia in aria Antonio. Guarda, uno c'era Alessio, uno ce l'ho io, presentano lo stesso difetto. Non li ho ancora cambiati, credo neanche lui, quindi ancora non ci ho messo mano. Oh, perfetto. Ripeni, Sabato. Cappa, no? Perché era stato un po' male, per cui avevo rimesso come un pazzo per una serata, ed ecco perché si stava ricordando lui della mia performance. grode. Come sta fatto? Sì, Ale. Una volta è andata a matrimonio Gianni Bravo 2, mi pare che era di là per Canora. Mi telefono dopo un paio d'ore e fa, dove, guarda se vuoi venire, se c'è solo all'ospedale, e non è quello che tu ci fai all'ospedale, io detto. E dice, siamo andati a questo pranzo e in 25 ci siamo dovuti ricorrere al coso, al pronto soccorso. E detto, cosa vuole a me? Io detto, sono in ematologia, detto, se vuoi salire a piedi, ho detto, stare, prendere l'ascensore, chiami tu, gli ho detto. Dice che era in 25, no, ho detto. Un successone, roba sicuramente troppo fresca, per cui il corpo umano non è più abituato alla roba troppo fresca e quindi bisogna darla un pochettino, un po' tantia, se no poi ci sono questi effetti. Gesù, che la vergogna. Io per quello che trovate pesce non ho mai mangiato, la verità, proprio per quel motivo lì. La carne sì, ma pesce proprio nulla. Se ogni tanto parte una portante sono io, che sto cercando di far funzionare. con uno di questi programmi, quindi la sto già dichiarando, Fa niente, a fuzzizzini. Cavacca. Se ne becchi uno che ti gestisce le memorie, ha una grafica che fa schifo. Se becchi quello che c'ha la grafica che è bellina, non ti gestisce le memorie. Insomma, quindi al contrario, là. È un peccato, perché, boh. Adesso non so neanche se sto uscendo. Sì, on air. Te scendo, non preoccuparti. Fai girare, fai che vengo subito. Ciao Ale, non ti avevo salutato, scusami, Massimiliano, anche me. Io saluto di Massimiliano anche a te. Andà bene. Ripigliatela Massimiliano. Povero Salvatore. Sta diventando scemo con quel baracchino, sai che baracchino è? Salvatore, te l'ho detto, metti mano a codice e comincia a costruire come sto facendo io. Cappa, sì, non mi piace nessuno di questi, Massimiliano, nessuno di questi, devo dire. Boh. Poi stavo facendo di tutto proprio per gestirmi le memorie da remoto e mi trovo questo che è fatto per Windows 95, questo programma, l'ultima release rilasciata, figurati. Quell'AM Radio ho visto che ha la possibilità di installare programmi opzionali per la gestione delle memorie per i Kenwood e per gli Ecom, però non c'è niente a fianco, quindi non so se sono dei plugin o vai a pesca. Insomma, tanta fatica a pronuda. Sono dimmi carissimo, qualche buona notizia mi devi dare. Porca miseria, ste cuffie di merda. No, stavo dicendo, ma notizie abbiamo? Non mi è attivo, è arrivato niente. Ah, bellissima questa storia, te la devo raccontare. Telefono giovedì al ministero. Mi presento, dico ma mi è arrivata la cartolina di ritorno ed è datata 20 novembre, quindi come vostro protocollo, e sono in attesa del mio ID e mi fa questa: ah no, assolutamente, il fatto che sia stata protocollata il 20 di novembre non vuol dire assolutamente che mi sia ancora stata data, infatti a me ancora non è arrivata. D'altronde dalla Sardegna mi è arrivata al momento solo una richiesta e non è certo il suo cognome, quindi dovrà aspettare che me la passino. Stavo dicendo, cioè, se dall'ufficio protocollo alla sua stanza. Non gliel'ho detto chiaramente perché sembrava irriguardoso del loro lavoro, ma dal 20 al 15 di dicembre, grazie a Dio, in 25 giorni, che razza di giro devono fare questi documenti? Hai trovato sicuramente la persona sbagliata, perché io ti posso dire, dalla raccomandata che loro mi hanno mandato a me, chiedendomi la documentazione che in pratica io ho dovuto mandare il congedo militare e nulla osta della capitaneria di appartenenza, che in questo caso era circomare della Maddalena, da lì, mentre nulla osta me l'ha fatto confermare Porto Torres. Dopo di quello ho mandato due foto, quindi la documentazione che loro mi hanno richiesto, che praticamente erano queste due tronzate. Dal momento in cui io ho fatto la raccomandata, Quattro giorni dopo loro mi hanno mandato, allora era così perché le patenti non erano ancora unificate, quindi mi hanno mandato il nulla osta loro con direttamente l'esonero e allegato il nominativo, quindi tutto automaticamente. Il primo nominativo però era ISO 0 DGR ed era provvisorio per 3 mesi, per 3 mesi. Dopo 3 mesi mi hanno mandato nominativo definitivo con la licenza legata alla licenza della mia FMI, che è quello che ho ancora, capito? Però è passata non meno di una settimana, guarda, non più di una settimana. Quindi non dica che non fate questo, dica che non ha voglia di fare le cose, che forse fa più bella figura. Infatti, cioè, voglio dire, va bene, stiamo parlando di un ministero, ma la miseria, cioè 10 giorni dopo è già tantissimo, va bene, però ipotizziamo che ci sia un ingolfamento di lavoro o qualche cosa di particolare, no, più di 10 giorni, ma arriviamo al 30 di novembre. Al 15 di dicembre mi dici che non mi devo meravigliare se la documentazione dall'ufficio protocollo non le è ancora arrivata nella scrivania. È allucinante. È allucinante anche solo a proporla una giustificazione del genere. Boh, guarda. Me ne sono cadute le braccia. Me ne sono cadute le braccia perché mi è arrivato prima il pacco che avevo chiesto alla inviarmi dall'Illinois, quello con i microchip che vi ho detto prima, ci ha messo meno tempo, con tutto che poi appena arrivato alla dogana italiana un pacco che costava $36 me l'hanno rincarato di €13,30 per tasse doganali. Non è allucinante per niente. Ciao Salvatore, Salvatore circolare qui da Papatango, si è aspettato da 3 mesi. Quanto hai aspettato tu, Sandro? 3 mesi che sto aspettando io. Allora, cazzo sai che mi ero dimenticato, Salvatore? La stessa tua documentazione l'ha spedita Sandro, che poi non ne ho più parlato io con lui, ma praticamente ha fatto lo stesso itinerario tuo, perché anche lui è in possesso di esonero. Cazzo, 3 mesi, non ne abbiamo più parlato, Sandro, 3 mesi stai aspettando, tu è vero? E allora, quella che mi ha detto questa signora, non è la tua che sta sviluppando? Guarda, io ci ho messo una pietra sopra, perché ci ho chiamato circa un mesetto fa e dice che erano un po' incasinati, stavano spogliando un po' le pratiche adiacenti, di avere pazienza. Ascolta, tu ti ricordi cos'era, una signora la tipa o era un tipo? No, io veramente ho chiamato queste informazioni ed era un tipo. Che io ho parlato proprio con questa qua che mi ha detto che è lei che li dà e che appena gli arrivano lei li dà subito, si chiama Nardoni. Adesso non me lo ricordo, comunque io circa un mese e mezzo fa circa ho fatto una chiamata e hanno ricevuto tutta la documentazione, soltanto mi hanno detto, dice, abbi pazienza perché stiamo sbrogliando le pratiche già adiacenti e così via. Comunque, riprendo un attimo là. Cose da pazzi proprio, boh. Io mi ricordo, vabbè, io tra una cosa e l'altra, una ventina di giorni, nulla di che, cioè io allora avevo dato l'esame, mi pare a, se mi ricordo, se era giugno o luglio, mi ricordo, ma io mi ricordo che ad agosto stavo già, ero già in possesso di tutto, cioè è passato poco tempo, era passato. Se te ricordi, Massimiliano, dal momento che avevamo fatto il cambio dai W agli S0 ci sono passati una ventina di giorni, ma allora le richieste erano tante, però mi ricordo, però dal momento in cui io avevo fatto lo stesso procedimento di Sandro e di Salvatore per l'esonero della telegrafia, quindi sempre di esonero si parla, non era passato neanche un mese, 2 settimane forse, e mi avevano mandato subito il nominativo provvisorio, che era di CR e poi mi hanno mandato DFB definitivo. Quindi la prassi è quella, una volta che loro hanno tutta la documentazione, nulla vostra e dalle varie, non è che possono stare ad archiviare la cosa, a tenerla sulla scrivania sino a quando piace loro, mi baricheranno a me. Comunque lunedì se riesco a mettermi in contatto parlo con l'ingegnere Salvatore, così gliela butto, giusto per fare gli auguri, così, ma poi quella documentazione che si ricorda era stata fatta, insomma, a vedere cosa mi dici. Allora, guarda, esattamente ti dico che siccome ci sono due timbri nella raccomandata, il primo è un 17 e l'altro è un 23. Un 17 e l'altro è un 23. Quindi diciamo che al 25 diamo la possibilità di due giorni, anche se non è possibile perché sarebbe illegale, che venga protocollata un giorno o due giorni dopo. Ma Dio santo, è una cosa, è incredibile. Salvatore, ti posso dire anche una cosa, addirittura siccome io avevo spedito diciamo l'attestato, la fotocopia, addirittura mi era ritornato indietro che volevano l'originale, pensate. Ma l'attestato della patente, la copia della patente, dici? No. Allora, io ho un attestato dove dice che io ho superato gli esami come operatore radio da militare. Ah, è K. Beh, quelli come minimo autenticati li avrei mandati, no? Sì, vabbè, a prescindere da quello, ma per dirti, io ho fatto una fotocopia, ha voluto l'originale. Sì, ma hai fatto una fotocopia e poi l'hai autenticata o no? No, è una semplice fotocopia dell'attestato, dove attestava che io ho superato gli esami come operatore radio e ho frequentato, diciamo, operatore radio per un certo periodo e rilasciato dalle forze Tizie, Caio e Seprovio. A me erano stati molto, molto chiari nel chiedermi i documenti che fossero autenticati, addirittura poi dal comune me li hanno fatti in copia conforme all'originale. No, io non ho autenticato niente, ho soltanto spedito l'originale, ho attualmente la fotocopia e basta, però cazzo sono già 3 mesi. Ho capito. Questa è la regione sarda, questa è la nostra grande Sardegna, la nostra grande regione, fanno pietà come uffici, fanno veramente pietà, guarda, no, non so cosa dire, io comunque lunedì provo a sentire l'ingegnere a vedere cosa mi dice, giusto così per salutarlo. Allora io ho chiesto nulla osta, che mi pare l'abbia fatto anche Massimiliano, perché noi radioamatori siamo soggetti, appunto, quando spostiamo la stazione radio dobbiamo segnalare lo spostamento della stazione radio stessa, e quindi ho chiesto nulla osta, quindi lo spostamento il cambio di stazione si chiama in normativa, no? Beh, ho telefonato, gentilissima, come sempre, la signora Sicchi, mi ha detto, signora Matti, non c'è nessun problema, mi faccio una richiesta scritta e me la manda. E così ho fatto, me l'ho mandata. Beh, ancora sono a mandarmi, perché mi ha dato anche un fax, non c'è problema, la leggo direttamente così alla ricetta. Basta anche un fax dove si dice che io ho cambiato punto di stazione da via Pasqua a via La Malfa di nuovo, visto che la patente è sempre via La Malfa, non l'ho mai cambiata, però ci sono legati i cambi di stazione. Non me l'hanno ancora mandata, è un fax che mi devono fare, un fax, capito? Siccome Massimiliano mi ha detto, mi pare che mi ha detto così Massimiliano, che posso andare anche giù all'ispettorato nostro, e quindi adesso appena 5 minuti vado all'ispettorato me la faccio fare direttamente da loro, capito? Per dirvi, cioè un fax che non c'è niente da elaborare, lì cioè, ma ah, sì, facciamo un fax a ISO0 di FB, mandiamo le cambi di stazione. Un fax. Immaginatevi voi, un fax è passato più di un mese. Immaginatevi voi tutta la vostra documentazione da elaborare, da vedere, da fare. Tanto vi bacia, sono allucinanti. È proprio così. Scusa, stavo sovramodulando. Sì, belle, non c'è dubbio, belle notizie. La cosa mi tranquillizza, vuol dire che per Pasqua dovrei avere il mio ID. Sicuramente se non per Pasqua l'anno nuovo, sicuramente, perché non pensare che adesso loro si mettano in forza per poter elaborare la tua documentazione, che io ci sono stato personalmente in quegli uffici, perché quando sono andato ad accompagnare alcune persone qualche anno fa per fare gli esami, sono andato a salutare persone che conosco, anche perché lì avevo c'ho collega a Cagliari eccetera, quindi insomma, e ti posso dire che in un ufficio ci sono 3-4 persone e stanno tutta la mattina leggendo il giornale grattandosi le unghie, questo te lo posso garantire in via Simetto. Questo te lo posso garantire, sia in via Simetto che in via Brenta, la stessa cosa, perché sono uno da un ingresso e uno dall'altro ingresso. Quindi o da via Brenta o da via Simetto stanno tutta la mattina negli uffici grattandosi le spalle. Ocala, pensa a te che per quell'altra procedura, non so se ti ricordi l'altra procedura che avevo fatto, lì mi hanno risposto immediatamente, mi hanno mandato, diciamo, tutta la documentazione per l'operatività in tempo di 15 giorni. Ma lì non potevo fare diversamente, Sandro. Lì c'è un altro discorso, capito? Già mai capito, no? Lì c'è un altro discorso, ma a livello personale, se per lavoro una cosa, ma a livello personale si grattano le balle, non gliene fotte niente. Vabbè, comunque. Comunque dai, tiriamo avanti. Pazienza. Oh, figurati, assolutamente. Sono, guarda, io sono un tipo che pazienza oramai ci va a nozze, quindi me la prendo. Me la prendo perché purtroppo so che tanto sarebbe inutile qualsiasi forma di protesta e quant'altro. Non ne caverei niente, per cui lascio perdere e aspetto. Meno male, stiamo parlando di un hobby e di una cosa da fare nei ritagli di tempo, guai se fosse stata una cosa più importante, perché veramente sarebbe stato da andare lì con un manganello dietro la schiena e menare botte a destra a manca. Ok, dai, bisogna avere tanta di quella pazienza che va a basta. Comunque mettetevi l'anima in pace per il nuovo anno, è stato già annunciato l'aumento di gas e luce. Meno male, frega niente. Io per il gas faccio il fuoco, un tarattino e cucino col fornellino come ai vecchi tempi. Per la luce mi compare un gruppo elettrogeno, almeno per alimentare le radio. Vabbè, tu la stai prendendo per scherzo e la dobbiamo prendere per scherzo. Ma boioia. Io non so più come fare, come si fa ad aumentare tutte queste cose senza che diano un qualcosa in più sullo stipendio. Io non riesco a capire come si possa fare una manovra del genere. Cioè, la manovra la devi fare, perfetto, ma purtroppo lo Stato ha bisogno di incrementare denaro. E va bene, non ci sono problemi, però mettimi in condizione di poter guadagnare qualcosa in più, cioè dai un incremento di 100, 200 euro, di 300 euro su uno stipendio base. Cioè, aumenta la contingenza, vai a che cosa, la mazza, che vini vari, brutti bastardi, che non sei di altri. Cosa già? Hai detto bene, ciao Gianni, buonasera, ben entrato. Ma c'è, il problema è quello Gianni, il problema è quello, capito? Se ci sono gli aumenti, in base agli aumenti, tu mi devi anche aumentare lo stipendio, perché io lo stipendio che prendo non posso incrementare ancora di più l'aumento della luce, dell'acqua, nettezza urbana, ICI, gasto gas, ma come si fa? Cioè Luciano, te la bomba è costa 30 euro, ogni 2 mesi devi comprare la bomba, sono 30 euro. Ma come ti rivolge? C'è una bomba a 30 euro e tutto il resto, il riscaldamento, il condominio, tutte le spese che ci sono da pagare giornalmente, cioè boh, allucinante, sempre con uno stipendio da fame, sempre con uno stipendio da fame, questo è il problema. Adesso ve ne dico un'altra, dai. Mia madre di solito di pensione prende intorno alle 570-575. Questo mese si è trovata in tasca di pensione 490 spiccioli. Come si può fare? Quello è un'altra cosa, tutti cerchiamo di farcela andare in pensione, una volta che va in pensione va a fame. Il problema è, come stavo dicendo stamattina a Giulio Rollaro, no? Come stavamo parlando stamattina con Giulio, il problema è che la manovra è stata fatta per poter guadagnare loro, nel senso che io vado in pensione a 67 anni, per un anno, 2 anni, 3 anni, mi do la pensione e poi muoio. Poi sono già morto, e così che la loro pensione non l'hanno più, capito? Quindi la manovra adeguata all'anzianità, loro una persona dice che tu non ti popolavano, più di 70 anni, a meno che non sia proprio una persona sanissima, che non ha mai avuto niente. Ma quante persone ha 70? Capito? Sei colleghi, 5 anni fa, andati in pensione, tutti e 5 insieme, ne è rimasto uno, 5 anni fa, uno solo ce n'è. Uno solo, sono tutti morti. Poi gli avrebbero fregati tutti, Cla. Cosa già? Il mio papà l'avrebbe fregati tutti, a 96 anni è morto. Vedi, il tuo papà è 96, il mio invece ne aveva poco più di 35. Però lì, un'operazione di allora, un calcolo a CTFeller che... Sandro già conosce, il professor Samino non ho potuto fare niente perché si è trovato con un diabete in corso e quindi è morto di emorragia interna. Ma stiamo parlando degli anni 60, ma anche il nonno aveva 90 anni, quindi avrebbe fregati lo stesso, capito? Però dico, è una manovra sbagliata perché, come diceva Toninotti la stamattina, è impossibile un muratore che sta tutto il giorno nel tabacchino sopra il ponteggio, che lui ha 58 anni, mi pare che ha detto, e è già in fase di non farcela più, come pretende lo Stato che lui lavori ancora sul ponteggio a 4-5 metri d'altezza, 6 metri d'altezza, a 67 anni di età con 43 anni di contributi. Ma ci rendiamo conto? Ma poi ci sono i mestieri più lavoranti, ci sono quelli magari più agevoli. Non puoi fare andare una persona che fa un mestiere, che tutto il giorno prende pesi e coso, farlo andare a 57 anni. No, ma non esiste dubbio. Non esiste dubbio, guarda, io sono sicuro che non faccio, ma sono sicuro perché me la sento, capito? Io con tutta l'umidità, tutte le cose, continuare a arrampicarmi, a scendere sottoterra, a rilevare tubi, a rilevare misure, a cambiare pompe, a fare quello, a fare quell'altro, ma fra un paio d'anni, guarda, fra un paio, mi basterebbe ancora un paio d'anni, io già non riuscirei più manco a salire le scale in ferro, quelle che ci sono attaccati ai muri, perché sono sicuro, guarda, oppure rimango attaccato. Avanti, Salvatore, con i saluti a Gianni. E ciao già. scusate, salutoni a tutti quanti, scusate, stiamo facendo un calcolo con mia moglie di una richiesta di quote di saldo, un piccolo imprevisto, di 2000 euro. Scusateci un attimo. Ho capito, ti stai già mettendo da parte i soldi per comprarti la radio nuova, perché non lo dici invece nasconde? Tambone, no, abbiamo fatto delle lavori di ristrutturazione dei terrazzi ed erano in totale, ci venivano a noi in questo caso 3.000 euro. Bene, al saldo di questi 3.000 euro che ci stanno chiedendo oggi in un foglio, adesso ce ne sono altri 2.000 perché hanno fatto dei lavori sui cornicioni e quant'altro. Che è vero che stavano cadendo in testa alla gente, quindi tutto sommato era meglio farla, però alla fine la spesa complessiva è stata di circa 24.000 euro e secondo me sono andati ben oltre e la nostra quota è 2.000, quindi insomma. Oh, io e a te Luca Radio. Adesso vedete, quelle sono spese extra, no? Così chiamate spese straordinarie. Se le conteggiamo a quelle ordinarie, sono sicuro che ho fatto bene a scendermi al secondo piano. Se fossi stato al nono piano mi sarei già buttato, invece al secondo non mi faccio niente. Avanti, ma c'è anche Antonello, mi pare, Antonello Alessio. Antonio, ci sei ancora? Non c'è più Antonello, Sandro. Di nuovo le carrozze torneranno. Così già? Se torneremo di nuovo le carrozze dei cavalli. Guarda, poco ci vuole, guarda, veramente. Scusatemi, faccio un attimo QRX perché stiamo facendo veramente dei conti, che questa è proprio una spesa che è molto, molto, molto improvvisa e inaspettata. Ci sentiamo tra qualche minuto, appena riusciamo a inquadrare un po' com'è la cosa. Fai ancora una cosa, prendi la segna, lo fai, e quelli che ci ha rimesso la tredicesima e chiudi i conti, non c'è poco da contare. 2 più 2 fa 4, fa 1 2 fa 1, 1 più 1 fa 0, cioè 1 meno 1 fa 0. Alla fine è meglio per uguale sicuramente, 0 titoli, come Mourinho, 0 titoli. Appena ti vedo ti tiro la tua tastiera e il tuo amato computer in testa. È sempre così di fare i conti. Io i conti li faccio così, guarda la busta affari, come lì. Uno, ma non uno a zero. A poi dirò, ma metti in busta a zero, non è venuta, non è venuta più nulla, finito. Allora ti. Oh, Sandro, è qui. Sandro. Grotte, non c'è più nessuno. Tutti mangiando stanno. Ti mando niente, tutti mandi niente, perché che ne so. Oh, le 8:10. Stavo già a messo. Allora a me da sono già a letto. E domani devono anche uscire. Pesci, domani tocca a me. Madonna santa, mi ero anche dimenticato, lo sai. Speriamo che non ci sia quel freddo di stamattina, sennò. Mi scende qualche accidente davvero domani mattina a Nulfi, cazzo che paese freddo. No, ha passato il vento, non c'è più vento e niente, no. Non è come stamattina, stamattina solo sole non si poteva stare, guarda. Tu si crede che mi ha aperto lo sportello del furgone, ha trasportato a me lo sportello e non riuscivo a chiuderlo, con tutta la forza che avevo mi spingete. Io non dici, cosa ne dici? Ma in realtà perché sei andato? A pescare, ma a Bufonetti sì, era una battuta, no, perché c'era brutto tempo, non lo fanno a pescare con quel ventaccio, c'erano le barche, ha detto Gianluca che sta facendo la guardia lì, ha detto che c'erano le barche che si muovevano tutte quante, e dice che battevano, facevano blin blin blin blin, negli affari, i ganci delle vele e cose, dice che sentivano le campane. Io lo so. Ma ho detto mio fratello che c'era un bel evento, ma no, siccome ho sentito Antonio che appunto ti ha detto io preparati andiamo a pescare, poi non ho sentito più nessuno, ero ancora X sino a tardi che stavo facendo roba qua, non ho sentito più nessuno e quindi pensavo che eravate andati a pescare. Che fuori certo, sì, ma non hai su punto, era un vento, un freddo, rimani, che si stava bene al calduccio. La pioggia, quasi questo, ubiciamo, vedo quelli fortati, tanto fuori che mi sono seduto lì a vedermi la TV, e mi sono pure dormito perché a mezzanotte almeno qualcosa, ma un quarto, mi ha svegliato mia figlia e mi sono andato a letto. Infatti c'erano tre radio accese, ho schiacciato l'interruttore generale, ho spento tutto e mi sono andato a cucare. Non ho sentito più nessuno, a parte il dopo cena, verso le 9:30, 10, poi non ho più sentito nessuno. E quindi me ne sono andato a nanna, pensavo che eravate andati a pesca. A pesca. E vabbè, tu, ma Antonio non è che quando gli dice che devi andare fai, non è che ne ha fatti nuda me. Quello mi dico, è un pacco furioso. Ma lo sai cos'è? Che mi ha detto che stava un attimo nel corriccio, aspettato, questo, poi vabbè, mi stava dando fastidio, il cuorrebbe, aspetta, mi devo drumito. Ma mio figlio era in quel rickshaw adesso, se chiamava qualcuno mi ha risposto, non ho sentito nessuno, sono rimasto in silenzio, tutti usciti sono in giro, infatti era un po' così, stavo fanno andare in giro, non dico, con questo tempo c'era un freddo, io sono uscito a prendermi il giaccone della divisa, io notte pensavo di andare a lavorare stamattina, invece poi io mi sono ricordato che devo lavorare praticamente, devo lavorare domani. Ma c'era un freddo, mamma mia! Lo so, perché mi sono fatto questo stamattina anch'io, c'era un ventaccio, maledetto, freddo pure era. Vabbè, non è che i gradi siano molto bassi, forse il vento più che altro che disturbava perché era forte come il vento. Adesso sono 11 gradi, mi siamo di notte, quindi non è che sia questa gradazione così bassa. Infatti, vabbè, io qua a casa ne ho 24 gradi ci sono, sono a manichi gossi, c'è riscaldamento a tutta birra. Però credo che fuori abbia abbassato moltissimo, no? Cioè si sia sollevata un pochino la temperatura. Rispetto a stamattina sì, però diciamo non è che sia questa eccessiva temperatura bassa, già si può resistere tranquillamente. Ho registrato un break, avanti. Ciao, buonasera. Salvo il buono alberghiero, però che tanto sono a te, l'ho detto, quindi pochi passaggi per salutare. Siete solo a me perché già nello pioruma in macchina, altrimenti l'avresti sentito. Sì, oggi ero a tasca di Marmobile e ho scambiato due chiacchiere con lui, però poi mi sono allontanato da tasca e ero perso. Lo saluti a parte mia, va? Sandro, Gianni, ti saluta Sandro con alberghiero. Ciao Sandro, se mi stai ascoltando, Gambio! Se passino arriva qua, è passo passo. Io arrivo a basso, qua già un po' di segnale c'è. Ti saluta Gianni Doppio Roma o Sandro. Grazie tante. Sto sentendo un sacco di traffico lì in radio a tasca, di gente che parla, sai, vista, che invidia, qua da via non c'è nessuno, tutti molti sono, c'è vergogna. Grazie a Dio che ci difendiamo, con l'ingresso mio, di Gianni, Antonio, Fabrizio e già siamo parecchi qua a Sassari. Anche noi ogni tanto ci abbiamo alti e bassi, nel senso che magari chiamano e non ti rispondono nessuno, poi dopo 5 minuti siamo tutti in radio, capito? No, io la verità, forse non sentivo nessuno, era tutta la sera in quel Rix. Ho fatto due chiacchiere stamattina con Giulio. Ho detto, ma mi piacciono tutti morti. Ho preso il telefono e ho resumato Antonio, Fabrizio, poi tratto Sandro, si è aggiunto Gianni qui e là e quindi eravamo tutti in radio. Adesso si sono allontanati perché Antonio era un matrimonio, quindi è andato a farsi la voce, a rinfrescarsi, che ha preso un po' di salsedine lì a Castelsardo. E Fabrizio ha il computer che sta guardando roba, ma poi gli è scesa l'antenna. Oh già, Fabrizio ha l'antenna caput. Ah, vero? Ma te l'hai fatto? E la messa là che tira un tasto? Ah, tira un tasto. Ah, pochino di quelle non serie, l'ha piegata e l'ha appoggiata a terra e ha rotto l'antenna. Sono bastato a eliminare quel palo e capito, non c'era un problema. Infatti adesso il computer sta guardando, ho detto di guardare praticamente direttamente su Mantova e ordinarsi la Mantova nuova direttamente lì dalla casa madre, capite? E non si può ricostruire la radiale, cosa ha rotto? No, ha rotto la punta centrale, credo, una cosa del genere, ma già ne abbiamo di quelle, ce l'ho anche io, non è un problema, solo lui la vuole mettere nuova. Vabbè, per il momento magari poi sarà ritornato. Per il momento almeno per uscire un po'. Vabbè, là. Cose che succedono. Io, diciamo, con i miei nuovi tirati secondo me non ho sbagliato, perché i tipi di vento che ci sono già tenuti fino adesso. No, mi lascia perdere la tua. C'è il tubo che non è dei migliori, però c'è un lavoro sui tiranti. Quella non scende manco se ti ammazzi, non ce la fa a piegare, perché i tiranti ce n'è 4 sopra, 4 e mezzo e 4 sotto. Cazzo, sono 12 tiranti in quell'antenna, ma stai scherzando? No. Io ho un tubo da un pollice e mezzo, quindi non ho neanche tiranti, manco uno. Nello stesso palo che ce n'è via Pascoli, però è praticamente 4 metri l'antenna, perciò va bene così. Ok. E io la gara come siete messi, Sandro? Ma io di mio già sono tranquillo, voglio tirarla più su, volevo aggiungere 5 metri di palo, perché io ho un pollice e mezzo, volevo aggiungere 5 metri di palo e aprire un'altra serie di tirante e mandarla più su, perché così magari esco dai palazzi. Però ricordo tanto tempo fa, quando ti iscrivevi al Radio Club, c'era la copertura assicurativa per la testa, ma le fanno ancora questa cosa? Si conferma, perché io non ce l'ho assicurata l'antenna. Tutte le antenne che ho sul tetto io sono assicurate, anche un pezzo di filo. Quindi non ho problemi, capito? Non ci sono problemi. Com'è che si fa? Claudio, com'è che funziona oggi questa cosa? Come funziona? Bisogna iscriversi all'ARI. Aspetta un secondo, dimmi già. Ho detto, se ti ricordi, il mio tubo sì non è dei migliori, ma abbiamo lasciato 3 metri di tubo all'interno, che erano sottili, abbiamo sollevato 5, e in più gli abbiamo messo quel tubo innocenti in punta. Vero, sì, già. È vero, avevamo messo uno doppio e poi l'altro l'avevamo sostituito, abbiamo messo quello d'acqua, perché era piegato il giorno che c'era il vento quando l'abbiamo montata, sì, l'avevamo ripreso l'attuale, ia, hai ragione. Quindi già penso che resista, io poi la vedo, non si muove quasi nulla, è tutto quella tirata, se molla le tirate c'è il combustibile. No, quei tirati non muovono manco se ti ammazzi già, uno perché il nylon marino è buonissimo, due perché ci sono i maniglioni, ci sono gli occhielli, cioè fatto benissimo, non stai scherzando. È fatto veramente bene quel lavoro, alla grande, non ne scenderà mai. Quindi Sandro, cos'è che volevi sapere? No, questo discorso, allora se mi dici che quel tipo di... No, tu ce ne pensi, allora io sono sicuro del lavoro che faccio. Quindi voglio tirare su, allungare l'antenna. Però giustamente in quel caso avere una copertura assicurativa non era male, Radio Crepa da Ghiero non c'è, basta iscriversi all'ARI per avere anche quel tipo di copertura e tanto lo devo fare con Luca perché non si riprende la patente, a gennaio facciamo la richiesta, chiedo a te, direi qualche informazione. Non c'è nessun problema, tu devi solo, siccome Alghero è commissariata, praticamente è chiusa la sezione perché non c'era un succio. Non perché sia andata male, dovresti, non c'è nessuna info, dovresti chiamare l'ARI di Milano, bisogna che ti cerco il numero, vabbè, in una radio rivista c'è, in una radio rivista, chiama l'ARI di Milano e le dici che tu hai necessità di iscriverti come SWPL momentaneamente alla sezione più vicina, in questo caso loro ti indicano la sezione più vicina è Porto Torres. mi pare che sia ad Alghero, poco fuori lo Sasso, adesso mi ricordo, quella più vicina, comunque, qualsiasi sia la sezione, oppure l'autore del Sassari, loro ti mandano la documentazione e tu fai la domanda. Automaticamente il consiglio di amministrazione si riunisce, il consiglio direttivo si riunisce, delibera la tua richiesta, dopodiché ti contattano e ti dicono che non ci sono problemi. Non c'è molte cose da fare, capito? Benissimo, allora il numero lo recupero. Qui internet o qualcosa lo recupero e chiedo lì. Ottimo. Così vediamo un attimino. Per entrare un attimino in questo momento mi organizzo questo upgrade all'antenna, perché davvero, guarda, sono convinto che 5 metri più su farebbero molta differenza, perché guarda, a volte poco fa per un attimo ho tirato fuori a Gianni, però avere delle lacune e essere sordo è un fastidio tremendo. Adesso mi senti al zero? Ehi, anche ti sento Gianni, buonasera. Adesso sono sotto casa, sempre in macchina, forse è la zona migliore questa qua, ti ho già sotto te. Considera che sto facendo con un antennino di 75 centimetri. Bella soddisfazione, sono molto contento di dirti allora che ti ascolto. Auto costruito. Giovanni Anni, col dire l'antenna di 80 centimetri, lei è sempre una PLC 800 già, non è venuto a Rano, la migliore antenna per la macchina, no? Non c'è Cristo, è uno stilo che tu metti lo stilo corto, lo stilo lungo, uguale, avevamo fatto quelle prove, va? È una canonata quella, io non ho notato nessuna differenza, come hai detto, sei entrato a Pocanti che stai riuscendo a lavorare, Santiago 9, non ti sei spostato da Santiago 9, come hai iniziato la Butibundi, 9 più 20, sino a casa tua 9 più 20, cioè... Cosa vuoi di più a quell'antenna? Ma cosa vuoi di più? È una canonata. Sì, no, bella soddisfazione, anche perché l'antenna lunga è un po' antiestetica, anche se io la passione mia è superiore a quella dell'estetica della macchina. Tante volte ti rompeva perché ti chiedeva se la macchina ha altro sconto, se qua, se là. Questa qua ha detto praticando questa ragazza, guarda quell'antenna che è lunga, e ha detto se l'avessi avuto dietro non l'avresti vista. È una bella curiosità, ma ti ripeto, il lavoro che hai fatto è bello anche esteticamente, perché è un'antenna che va bene, ha centro petto e va molto bene. Viaggia veramente alla grande, ottimo abbinamento con la radio, con tutto, è veramente una canonata. Sandro, per evitare di chiamare e fare, vai direttamente sul sito Ari Sassari, cerca arisassari.it, apri sezione Ari Sassari, e invece di stare lì a telefonare a fare, fai una raccomandata, o con ricevuto ritorno, anche se fa ricevuto ritorno non c'è problema, c'è la casella postale, c'è l'indirizzo della casella postale della sezione Ari Sassari, le scrivi due righe e gliela indirizzi alla casella postale, poi loro quando le tirano la posta la leggono, davvero non ti contattano direttamente il presidente o il vicepresidente o il segretario della sezione di Sassari. Ci stanno subito da non farlo. Vediamo un attimino leggere cosa dico. Dici una cosa, allora, come CV il dipolo non è concesso, come CWPL? Sì, come CWPL anche la direttiva, basta che abbi un ricevitore collegato, Alessandro, non ti fare fottere. No, c'ho l'ICR100, e il ricevitore è lì. Come CWPL è concessa anche l'antenna direttiva, se è sotto quella nuova legge, prima non era concessa. Adesso come CWPL sono concesse antenne a livello amatoriale, basta che siano collegate a un ricevitore di qualsiasi tipo. possibilmente il ricevitore è banda decametrica, ma questa banda decametrica mi pare che ce l'ho io uno della Clio, che era decametrico proprio, è proprio decametrico, faceva solo le bande naturali e basta, non riceveva tutto il baravan che ricevo adesso, capite? Sto ricevendo a casa già. Ci sentiamo dopo, ok?